Non piangere, ti mando un bacio. Scusami, ma raggiungerti non ce la faccio. Lo sai com'è fatta Roma col traffico, pure se dai il massimo, poi sparisci in un attimo. Baby, ti dicevo di affacciarti alla finestra, di stringermi la mano poi mentre scrivevo questo. Oppure un altro, ma che importa, un pezzo di carta. Tu guarda, c'è vento, se ci metti la sciarpa. Sto con un amico in motorino, come nel 99. Non sono mai stato così vivo, ho scritto un vaffanculo sopra il cuore. Però trovo ancora le parole per farti sentire grande, pure se non so dove stai o se mi odi come gli altri. Una volta è colpa tua, due volte è colpa mia. Ma dove vai? Senza di me. Prendimi a pugni il cuore, se ritorno di nuovo da te. Da fuori non sembro solo, ma baby tu sai come sogno. Offrirò tutti un giro per brindare un'altra volta a te, che mi ha lasciato un segno, che da quando non ti ho mi perdo. Sembra ieri guardavamo il cielo cadere sui tetti dei palazzi, e scioglievi questo nodo che c'ho sempre in gola con filo di voce. Mi ricordo bene tutte quante le promesse che ci siamo fatti. Quello che ricordo meglio è quello che alla fine non ci siamo detti. Ora fingo di essere tranquillo, mi dico che è tutto a posto. Mando giù un dito di Smirnoff per inghiottire un altro strillo e scordarmi i tratti del tuo volto. Forse sono a un punto morto, è un pezzo che non chiudo occhio. E a tratti non mi riconosco, peccato, tempo sprecato. Siamo ad un passo divisi soltanto da un vetro specchiato. Respiro spezzato, un bicchiere scheggiato sopra la moquette. Questa notte lascio impronte su una strada di polvere. Credevi a tutte le mie bugie per non restare senza di me. Prendimi a pugni il cuore, se ritorno di nuovo da te. Da fuori non sembro solo, ma baby tu sai come sogno. Offrirò tutti un giro per brindare un'altra volta a te, che mi hai lasciato un segno, che da quando non ti ho mi perdono.